Canto diciannovesimo della Divina Commedia. Il Purgatorio di Dante Alighieri. Questa registrazione LibriVox è di dominio pubblico. Letto da Pierre. Canto diciannovesimo. Nell'ora che non può il calor diurno intiepidar più il freddo della luna, vinto da terra o talor da Saturno, quando i geomanti lor maggior fortuna veggiono in oriente innanzi all'alba surger per via che poco le sta bruna, mi venne in sogno una femmina balba, negli occhi guercia e sovra i piedi storta, con le man monche e di colore scialba. Io la mirava, e come il sol conforta le fredde membra che la notte aggrava, così lo sguardo mio le facea scorta la lingua, e poscia tutta raddrizzava in poco d'ora, e lo smarrito volto, come amor vuol, così le colorava. Poiché l'avea al parlar così disciolto, cominciava a cantar sì che con pena da lei avrei mio intento rivolto. Io son, cantava, io son dolce sirena che i marinari in mezzo al mar li smago, tanto son di piacere a sentir piena. Io trassi Ulisse del suo cammin vago al canto mio, e qual meco s'usa rado sen parte, sì tutto l'appago. Ancor non era sua bocca rinchiusa quando una donna parve, santa e presta, lunghesso me per far colei confusa. «O Virgilio, Virgilio, chi è questa?» fieramente dicea, ed ei veniva con gli occhi fitti pure in quella onesta. L'altra prendeva e dinanzi l'apriva fendendo i drappi e mostravami il ventre. Quel mi svegliò col puzzo che n'usciva. Io volsi gli occhi e il buon Virgilio al mentre voci tomesse, dicea: «Surgi e vieni, troviamo l'aperto per lo qual tu entre». Su mi levai e tutti eran già pieni dell'alto dì i giron del sacro monte, ed andavam col sol nuovo alle reni. Seguendo lui, portava la mia fronte come colui calà di pensier carca che fa di sé un mezzo arco di ponte. Quando io udì «Venite, qui si varca», parlare in modo soave e benigno qual non si senta in questa mortal marca, con l'ali aperte, che parean di cigno, volseci in su colui che si parlonne tra i due pareti del duro macigno. Mosse le penne poi e ventilonne: «Qui lugent, affermando esser beati, ch'avran di consolar l'anime donne. Che hai che pure in ver la terra guati?» La guida mia incominciò a dirmi, poco amendue dall'angel sormontati. Ed io, con tanta sospeccion fairmi, novella vision ch'a sé mi piega, sì ch'io non posso dal pensar partirmi. «Vedesti», disse, «quell'antica strega che sola sovra noi ormai si piagne? Vedesti come l'uom da lei si slega? Bastiti e batti a terra le calcagne. Gli occhi rivolgi al logoro che gira, lo regge eterno con le ruote magne. Quale il fancon che prima a pie si mira, indi si volge al grido e si protende per lo disio del pasto che là tira? Tal mi fec'io, e tal, quanto si fende la roccia per dar via a chi va suso, n'andai in fin dove il cerchiar si prende. com'io nel quinto giro fui dischiuso, vidi gente per esso che piangea, giacendo a terra tutta volta in giuso. Adesit pavimento, anima mea! Sentia di lor con sì alti sospiri che la parola appena s'intendea. O eletti di Dio, li cui soffriri e giustizia e speranza fammo enduri, drizzate noi verso gli altri saliri. Se voi venite dal giacer sicuri e volete trovar la via piuttosto, le vostre destre sian sempre di furi. Così pregò il poeta, e sì risposto poco dinanzi a noi ne fu, perch'io nel parlare avvisai l'altro nascosto, e volsi gli occhi agli occhi del signor mio, ond'egli m'assentì con lieto cenno ciò che chiedea la vista del disio. Poich'io potei di me fare a mio senno, trassimi sopra quella creatura le cui parole pria notar mi fenno, dicendo: spirto in cui pianger matura quel senza al quale a Dio tornar non puossi, sosta un poco per me tua maggior cura. Chi fosti e perché volti avete i dossi al su, mi di, e se vuoi chi t'impetri cosa di là ond'io vivendo mossi. Ed egli a me: perché i nostri diretri rivolga il cielo a sé saprai, ma prima scias quod ego fui successor Petri. Intra siestri e chiaveri s'adima una fiumana bella, e del suo nome lo tito del mio sangue fa sua cima. Un mese e poco più prova io come pesa il gran manto a chi dal fango il guarda, che piuma sembran tutte l'altre somme. La mia conversione o me fu tarda, ma come fatto fui roman pastore, così scopersi la vita bugiarda. Vidi che lì non si quietava il cuore, né più salir potesse in quella vita, perché di questa in me s'accese amore. Fino a quel punto, misere partita da Dio, anima fui, del tutto avara. Or, come vedi, qui ne son punita. Quel che avarizia fa, qui si dichiara in purgazion dell'anime converse, e nulla pena al monte ha più amara. Sì come l'occhio nostro non s'aderse in alto, fisso alle cose terrene, così giustizia qui a terra almerse. Come avarizia spense a ciascun bene lo nostro amore, onde operar perdesi, così giustizia qui stretti ne tiene, né piedi né le man legati e presi. E quanto fia piacer del giusto sire, tanto staremo immobili e distesi. Io m'era inginocchiato e volea dire, ma con mio incominciai ed ei s'accorse, solo ascoltando, del mio riverire. Qual cagion, disse, in giù così ti torse? Ed io a lui: per vostra dignitate, mia coscienza dritto mi rimorse. Drizza le gambe e levati su, frate, rispose, non errar, conservo sono teco e con gli altri ad una potestate. Se mai quel santo evangelico suono che dice neque nubent intendesti, ben puoi veder perch'io così ragiono. Vattene omai, non vo che più t'arresti, che la tua stanza mio pianger disagia, col qual maturo ciò che tu dicesti. Nipote ho io di là, ch'a nome Alagia, buona da sé, pur che la nostra casa non faccia lei per esempio malvagia, e questa sola m'è di là rimasa. Fine. Del canto diciannovesimo.